Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cara Deborah, come stai? Tutto bene? E sto molto bene, ti ringrazio. Il mio compleanno si avvicina e quindi niente, così sto un po' sognando. Volevi dirmi qualcosa? Volevi dirci qualcosa, insomma, perché incombe questa data importante. Allora, ieri abbiamo cominciato con Audrey Hepburn per colazione da Tiffany, oggi cominciamo con Mango che canta Oro. Insomma, è un messaggio neanche tanto velato il tuo, ma perché hai fatto questa scelta? Ma perché siamo sempre a caccia delle solite notizie frufru, quelle che ci consentono di aprire in maniera leggera il nostro programma. Allora, in linea di continuità con quanto raccontato ieri, le sorti di Tiffany, che sta ristrutturando il suo bel palazzo sulla Quinta Strada a New York, ma a quanto pare LVMH non la vuole più comprare. O quantomeno, se vuole essere comprata, deve abbassare il prezzo. Oggi abbiamo un'altra notizia molto carina, che è anche molto coerente con le battaglie ambientali che si stanno facendo in questo periodo. Oggi, peraltro, è la giornata mondiale dell'ambiente. E allora abbiamo scoperto che questo grande brand, Pandora, entro il 2025 cesserà completamente di produrre gioielli utilizzando oro e argento appena estratti, ma acquisterà unicamente risorse riciclate. Una scelta che ridurrà le emissioni di anidride carbonica di 2/3 per l'argento e di oltre il 99% per l'oro, per cui ci sembra una scelta etica molto importante che sicuramente non andrà a detrimento della bellezza dei prodotti di questo brand e soprattutto della validità dei regali che si fanno a tutte le ragazze appassionate di questi beni. Ecco, io vorrei precisare a beneficio degli ascoltatori sì? che secondo me non c'è? Vale però riciclare un regalo che avevate dato. Secondo me su questo l'ambiente peggiora e non migliora. Tra l'altro, cara Deborah, devi sapere che sul sito del Sole 24 ore, proprio da sì. questi giorni, forse da ieri o da oggi, c'è una sezione sostenibilità che, ovviamente, trattandosi del sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com, si occupa ad esempio dei fondi ESG, cioè quelli che hanno criteri esatto. ESG, prodotti di investimento con criteri ambientalmente sostenibili. Ma oggi non parliamo di ambiente, bensì, dillo pure allora. Tu. Allora. Guarda, però ci arrivo facendo anche un ragionamento ambientale. Allora, ti ricordi nei giorni scorsi quando noi abbiamo raccontato del bonus per acquistare la bicicletta, di questo incentivo fiscale che è stato varato di recente e che naturalmente dovrebbe anche contribuire a far circolare un po' meno auto sulle nostre strade e un po' più due ruote, anche in questo caso una scelta che ha ovviamente una finalità ambientale. E allora noi abbiamo scoperto che per chi vuole ottenere questo incentivo, questo bonus, deve farsi l'identità digitale. E allora abbiamo scoperto che ci sono molte persone appunto che non sono molto pratiche nel rivolgersi alla pubblica amministrazione per costituire la propria identità digitale, come dicevamo, e quindi avevamo promesso ai nostri ascoltatori di realizzare una trasmissione proprio che desse tutte le istruzioni, e ci hanno dato pure dei gran vecchioni perché, come ti ricorderai, più, ieri più l'ascoltatore... Più a me, devo dire, no, sì, ha detto che sopra i 50 anni, insomma, ma cosa volete capire di speed, cosa vogliamo capire di speed? E, niente, allora. Purtroppo io posso dire però che mi sono fatto le mie passwordine e riesco anche a dialogare un po' con l'agenzia delle entrate, con le mie password, però vabbè, accetto il fatto che anagraficamente oramai sono sorpassato. Comunque, lo speed o la speed, non lo so, forse meglio lo speed perché la sigla sta per sistema pubblico di identità digitale. Esatto. Ecco, questo SPID diventa sempre più importante per dialogare con qualsiasi oramai ramo della pubblica amministrazione, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con i ministeri, con i comuni, insomma un po' con tutto. E allora oggi ne parliamo, cerchiamo di capire a che punto siamo, quanto è facile o difficile ottenerlo e quali sono i passaggi. I numeri... Credo che sia anche necessaria, Mauro, scusami se mi intrometto continuamente, noi facciamo anche fatica un pochino ad avvicendarci, essendo io da remoto e tu in studio, ma è anche uno strumento utile in questo periodo, se non ricordo male, per chiedere tutta una serie, una gamma di quelle provvidenze che nei vari provvedimenti che si sono succeduti in questa fase difficile appunto di pandemia, il governo appunto ha varato una serie di sostegni ed è più facile, se tu hai l'identità digitale, accedere appunto ai canali della pubblica amministrazione per farne richiesta, per cui anche a parte il bonus bici, ma anche gli altri, credo il bonus babysitting e tutta una serie di indennità, insomma, si possono richiedere più facilmente se si ha l'identità digitale, per cui dobbiamo un po' svecchiarci tutti da questo punto di vista. Bene. Ne parliamo tra pochissimo, cioè dopo le 11.30, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Dall'altra parte del vetro, vigile e austero come si conviene, c'è Peter Bescapè che annuisce ma molto poco, più dietro invece è un po' nascosta purtroppo dalla sagoma di Peter l'intrigante Laura Faggin, che ringraziamo per la collaborazione, sempre naturalmente sorretta ancorché a distanza dall'ottimo Marco Lombardo. Tutto ciò premesso, cara Debora, e tutto ciò promesso, perché appunto parleremo tra poco di SPID, io farei un po' di giornale radio del risparmio, se tu sei d'accordo. Molto volentieri. E poi c'è un altro tema di quelli un po' carsici che tornano spesso qui a Due di Denari. Andiamo. Un grande classico. Debora Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Vedi tu che sei sempre accanito con chi non è in regola con le tasse e con il fisco. Non è mica una cattiva abitudine se poi tutta questa abitudine per l'appunto ti consente di abbellire la tua casa con oggetti d'arte, magari anche qualche dipinto di Pablo Picasso. Non so perché sei sempre così ostinato nel suggerire alle persone di essere in regola con il fisco. Guarda che sei veramente una brutta persona. Sicuramente, guarda, si tratterà di un mecenate, però io leggendo questa notizia certo, vedo che è un mecenate smemorato, perché ohimè, egli è stato colpito da un sequestro di beni disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, e un sequestro eseguito poi dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, perché già condannato a 10 anni e 7 mesi per frode fiscale e trasferimento fraudolento di valori, insomma questa amnesia si protraeva, aveva così accumulato attraverso società estere dunque una mancata corrispondenza di tasse per una ventina di milioni di euro a quanto pare, 2 lussuose ville, 67 oggetti d'arte di antiquariato, tra cui appunto i dipinti a cui facevi cenno di Pablo Picasso, poi anche c'erano dei De Caro, dei Cassana, insomma sculture, e un patrimonio artistico ragguardevole che adesso penso entrerà nella disponibilità del tribunale o forse dell'Agenzia delle Entrate, insomma potrebbero organizzare una piccola mostra, magari sarebbe un'idea di quanto recuperato all'evasore, guarda, o presunto tale. Sarebbe interessante se i tribunali aprissero, e non a caso faccio questa affermazione, perché poi abbiamo anche da raccontare un'altra cosa interessante ai nostri ascoltatori. Allora, senti un po', lo SPID servirebbe anche in questa fase per fare richiesta del cosiddetto reddito di emergenza, che è una delle tante misure varate dal governo appunto nelle ultime settimane, una misura di sostegno economico destinata al milioni di italiani che sono in difficoltà appunto economiche a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Allora, questa mattina l'INPS ha inviato un comunicato dal quale si evidenzia che numerose domande che stanno già arrivando appunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per chiedere questa provvista, sono almeno 150.000 nei primi giorni già giunte all'INPS appunto dai primi giorni dall'avvio della misura, e allora sono domande che praticamente non possono essere portate avanti e quindi non possono essere esaudite perché sono prive del DSU, che è la dichiarazione sostitutiva narrativa unica. E qua mi devi aiutare, Mauro, per ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è questo documento e perché è fondamentale per fare la richiesta del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza in questo caso. Esatto, questa dichiarazione sostitutiva unica che deve essere in corso di validità, perché altrimenti, se non c'è una DSU, così è la sigla, in corso di validità non è possibile erogare il reddito di emergenza, non si può arrivare al ISEE erogato. Quindi è necessario procurarsi questo, se lo fanno, questa attività è svolta da CAF e patronati, ne abbiamo parlato diverse volte qui a Due di Denari, so che ne parla molto spesso anche il Sole 24 Ore, specialmente, cara Debora, nell'edizione del lunedì, devi sapere. Naturalmente si può poi presentare la domanda per il reddito di emergenza entro il 30 giugno e indovina un po', sempre se hai la OLO, esatto, speed, perché sempre lì oggi andiamo a cadere. Esatto, bisognerà fare una trasmissione esclusivamente sul reddito di emergenza. Mauro, guarda, te la butto lì, tu che hai la tua preziosa agendina con tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni, ti così inviterei a ricordare anche di fare questo tema come approfondimento. L'ultima notiziola che diamo del nostro giornale radio del risparmio riguarda invece l'attività che non si ferma mai da parte dell'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, che ha accertato da parte di una società fornitrice di energia elettrica e gas, Enegan, una pratica scorretta, e l'ha multata con una sanzione, l'ha sanzionata per una cifra pari a 2.875.000 euro, e quindi non mi pare neanche una, come dire, una multa piccolina. In che cosa consisteva questa pratica? Nella fatturazione di diverse voci di costo e penali per recesso che non erano dovute da parte degli utenti, e poi ometteva anche di erogare informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura appunto di questi oneri, per cui è arrivata una bella multa, e quindi dobbiamo pretendere dalla società che ci offrono e per le quali paghiamo appunto questi servizi di essere assolutamente trasparenti appunto nei costi che praticano, soprattutto nelle penali che ci applicano quando magari vogliamo cambiare operatore. E quindi in questo caso l'antitrust ha ritenuto che Enegan non fosse particolarmente trasparente. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio del risparmio. Abbiamo un caso da segnalare per il nostro dillo a due di denari, che è un caso un po' di un effetto collaterale non voluto, ma ohimè abbastanza fastidioso e quasi direi doloroso, del lockdown e del blocco delle attività pubbliche e private che ne è conseguito in queste settimane. Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Io sono disperata per via del coronavirus, perché ho comprato una casa all'asta e l'ho pagata in contante a febbraio e mi è stata assegnata, ma purtroppo tutto si è fermato perché il Palazzo di Giustizia riapre il 9 di settembre a Milano, e così non ho ancora le chiavi della mia casa. Noi abbiamo 70 anni, abbiamo 1200 euro di pensione, 900 euro di spese di affitto in un locale di 40 metri quadri, i miei mobili sono chiusi dentro dei container, devo pagare tutto e sono alla disperazione perché non ho più soldi per andare avanti. Per favore, sembrerebbe che io non abbia nessun diritto, che dare la prima casa a degli anziani non sia così urgente. Per favore, la mia pratica è bloccata lì e come me non sono da sola, di sicuro siamo in tanti. Vi prego di darmi delle dritte, ho dei diritti. Allora Mauro, volevo raccontarti che io mi sono scritta un po' questa mattina con la signora Cristiane, che ci ha appunto rivolto questo messaggio accorato. Peraltro lei dice: sembra che noi anziani non abbiamo diritto ad una casa, ma vorrei ben vedere se la sono pure comprata all'asta, quindi non è che qua stiamo chiedendo la beneficenza al nostro paese, ma di rientrare in un diritto di cui si è pienamente titolari. Il punto è, come dicevamo prima, che sono chiusi i tribunali e quindi anche le risposte che a livello istituzionale sono state date alla famiglia di questa signora signora sono, come dire, in teoria corrette, perché le hanno risposto che in particolar modo l'ha fatto il custode giudiziario nominato dal tribunale appunto di queste immobili, immobile. Il custode giudiziario le ha spiegato che purtroppo fino a quando il tribunale non verrà regolarmente riaperto, e questo avverrà solamente a partire da settembre, non potrà essere fatto il trasferimento di proprietà dell'immobile, quindi questi signori non possono andare ad occuparlo avendolo regolarmente comprato. Bisognerà andare a fondo anche di questa vicenda, Mauro, che ne pensi? Eh sì, perché sostanzialmente c'è una sospensione delle procedure di liberazione degli immobili, questo è il termine utilizzato, e questa sospensione opera fino a tutto il mese di agosto, e quindi bisogna aspettare settembre, così è spiegato anche nella risposta del custode giudiziario. Però in questo modo la signora che ha acquistato a un'asta appunto si ritrova in questo momento nell'impossibilità di venire in possesso del bene che ha acquistato, che ha regolarmente acquistato. Vedremo che come si può trovare, se si può trovare una qualche formula, una qualche strada, o se ci sono anche altri casi. Se volete segnalarceli, la nostra email è sempre a disposizione, duedidenari@radio24.it. E adesso andiamo al primo tema della puntata. Non l'abbiamo annunciato, è un po', l'abbiamo detto, un ritorno di un tema di cui ci occupiamo spesso. Sigla. Finalmente hanno capito che qualcosa qui. Allora, dobbiamo tornare a parlare, Mauro, di un prodotto, non vorrei neanche definirlo di investimento, ma proprio di risparmio, perché è uno degli strumenti più semplici che consentono a tante persone di avere appunto un piccolo risparmio presso le poste. Parliamo dei buoni fruttiferi postali. Ogni tanto ne torniamo a parlare perché magari qualcuno li ritrova sottoscritti dai nonni in un cassetto, va in posta e non li può riscuotere perché sono caduti in prescrizione, perché sono un po' vecchiotti, e quindi si sono aperte tante volte delle discussioni sulla possibilità eventualmente di ritornare in possesso di queste somme che sono state appunto magari faticosamente risparmiate dai nostri avi per noi, ma poi perché ce ne siamo dimenticati appunto non si possono riscuotere. Ma in realtà ogni tanto qualche caso con un po' di ostinazione si cerca di risolverlo in maniera diversa, soprattutto se si ritiene di averne le ragioni. Il caso di cui parliamo oggi è il caso di una nonna, sì, che aveva appunto sottoscritto nel gennaio del 2002 un buono dall'importo di 500 euro presso un ufficio postale come regalo destinato alla sua nipotina, e che si sarebbe dovuto riscuotere al raggiungimento della maggiore età di questa ragazza. E cosa che lei ha fatto ai 18 anni compiuti nel mese di luglio dell'anno scorso. La ragazza è andata in posta tentando di riscuotere appunto la somma che era nel frattempo maturata. L'impiegato gli ha detto no, non puoi, perché il buono si è prescritto nel gennaio del 2019. La nonna in questione naturalmente non era contenta di questa risposta. Il buono era settennale e da quando scade praticamente il buono ci sono 10 anni per poterlo riscuotere, appunto sono i termini della cosiddetta prescrizione. La nonna è andata da un'associazione dei consumatori e si è fatta aiutare per avere ragione della sua vicenda, e noi questa mattina appunto questo legale che l'ha aiutata l'abbiamo convocato. Vuoi presentarlo tu? Volentieri, è l'avvocato Maurizio Mariani, che è legale di Confconsumatori e che ci spiega come si sia chiarito allora come si calcola questa durata e poi il decennio di prima della prescrizione. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, avvocato. Buongiorno e grazie per l'invito. Com'è che funziona? Perché allora qui si giocava veramente su 7 anni pochi più mesi. 10 anni, e ancora vale ancora per tutto il 2019 l'incasso di questo buono, oppure no, perché bisognava calcolare invece proprio dalla data di emissione e non di sottoscrizione, se capisco bene, ma ci aiuti lei. Questa era la tesi di Poste Italiane, secondo cui il buono andava riscosso ai 7 anni decorrenti dalla data di emissione. In realtà la Poste Italiane non applicava una norma ben precisa che era prevista dal decreto ministeriale che prevedeva appunto la emissione di questi buoni. In base alla norma i buoni di questa serie, esattamente la serie AA3, andavano liquidati al termine del 7° anno successivo a quello di emissione. Di conseguenza il 7° anno successivo a quello di emissione, parlando del gennaio 2002, era il dicembre del 2009. A questo punto potevano essere riscossi buoni e da questa data decorreva il termine decennale di prescrizione, che è un termine generale per tutti. Quindi il termine non era gennaio del 2019, termine di ma tutto prescrizione, l'anno. Tutto l'anno. Noi siamo riusciti a fare, visto che la signora è stata tempestiva a sottoporci il caso, a fare il reclamo nei termini, in modo che così abbiamo interrotto il termine di prescrizione. Nel silenzio di Poste Italiane abbiamo adito l'arbitro bancario e finanziario, che è uno strumento economicissimo, veloce, tanto che ha pronunciato questo provvedimento in pieno periodo Covid, cioè fine aprile, e poi noi è arrivato il primo giugno. Quindi con poche decine di euro e pochi mesi di attesa abbiamo ottenuto una soddisfazione per la ragazza, che ci è rimasto un po' male, ecco. Eh beh, certo, anche perché qui ballavano davvero per 7 mesi. Lei si è presentata nel luglio del 2019, le hanno detto no, sarebbe dovuta venire da noi 7 mesi fa. Insomma, uno rimane male, anche perché poi questo tipo di investimento fatto spesso dai nonni è ricorrente. Sì, ha un valore affettivo, come dire, una piccola previsione, un progettino che si fa all'inizio quando nasce il bambino. Ci sono tanti di questi casi. Ha ragione. Non, è vero che ci sono anche tanti casi, Deborah, di buoni fruttiferi postali che generano spesso delle difformità interpretative, per dir così, tra i sottoscrittori e le poste. Sì, è vero. Dipende dalle serie di emissione. Ma quello che io mi chiedo, Mauro, e magari chiedo anche un commento all'avvocato Mariani, è mai possibile che nel momento in cui il buono arriva a scadenza e poi appunto si aprono i termini per la prescrizione, le Poste Italiane non possono fare nulla per comunicare ai diretti interessati o ai familiari appunto che c'è questo piccolo investimento fatto presso le poste? Molto spesso, dicevamo, cadono nel dimenticatoio di qualche cassetto, magari i nonni possono anche passare a miglior vita nel frattempo e quindi dimenticarsi anche di comunicare alla famiglia che ci sono questi titoli in circolazione. Le poste non hanno nessun obbligo di comunicazione? Non ce l'hanno, però dobbiamo rendere accesso a quel che diceste. Allora, noi stiamo parlando di buoni cartacei, quindi le poste non hanno più niente, perché hanno dato nel titolo, hanno dato tutto. E nel titolo stesso è scritto sul retro che è scaduto il periodo fruttifero, i buoni vanno riscossi nel termine di prescrizione. In genere è scritto 5 anni, poi in realtà sono 10 anni perché è stato modificato per legge. Quindi non bisogna essere anche dimenticare queste cose nel cassetto, perché non è un onere di Poste ricordare che c'è quella scadenza. Al contrario. È per saperlo, infatti, così sollecitiamo le persone ad andare a dare un'occhiata nei cassetti di nonni e zii nel caso in cui abbiano il dubbio che ci sia qualcosa. Controllate i cassetti. È prescritto, qui non c'è proprio nulla da fare. C'è qualcosa da fare su alcune serie dove si è stata fatta un po' di confusione negli anni passati, lì sì. Esatto. Ma sempre andando con grano salis, andando a vedere il caso, la serie e cosa è successo effettivamente, certo. Nel titolo, cosa è stato stampato. Grazie all'avvocato Maurizio Mariani, legale di Conf Consumatori. E cara grazie, Deborah, è il tempo, sono le 11.30 in punto, è il momento delle borse. Beh, Deborah, allora se è il tuo compleanno tra poco te la canta la canzoncina, va bene? Oggi è il tuo compleanno, a me, a te, festeggiamo tutti insieme sorseggiando un po' di te e tanti tanti auguri a te, auguri! Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... di denari. Buongiorno, in realtà avere la SPID non è una procedura lunga, è una procedura complessa che non so quante persone ultra cinquantenni siano in grado di fare. Ma cosa vuol dire? Ma dipende che lavoro fai, sei avvezzo a computer e tutto quanto, è una banalità. Se invece fai dell'altro, magari la cosa diventa più complicata, non c'entra l'età. Io ho 73 anni, ho fatto tutto online, ho lo SPID. 66 anni e sono già 6 mesi che ho lo SPID, quindi quell'ascoltatore che ha chiamato proprio non lo calcolerei. vabbè dai, ma non ho detto tutti gli ultra cinquantenni, però devi ricevere una mail e già voglio sapere quanti sanno andare a controllare le mail. Cliccare su un link che ti porta su un sito internet, inserire dei codici che ti vengono mandati per SMS, inserire una password. Poi devi anche installare l'app delle poste con un'altra password, con degli altri codici, perché serve da controllo. Dai, siamo seri, non tutti gli ultra cinquantenni sarebbero in grado. Non ho detto che nessun ultra cinquantenne è in grado, non tutti. Dai, siamo realisti. Debora, gli faremo fare il tutorial. No, io in quanto ultra cinquantenne non so se sono in grado, quindi ho scomodato dai. Io ho scomodato due esperti di valore mondiale, così mi faccio aiutare, essendo ultra cinquantenne. Che devo fare? Bisogna che in qualche modo trovi degli questi aiuti, poveri anziani dei digitali, tutori. Esatto. Gli anziani digitali adesso ci definiremo in qualche modo, Mauro, vai. Allora, in soccorso dell'anziano conduttore e magari di qualche ascoltatore, anziano o non anziano, insomma, intervengono in rigoroso ordine alfabetico per cognome. Stefano Arbia, responsabile del progetto SPID per Agid, cioè l'Agenzia per l'Italia Digitale. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno. E il professor Luca Gastaldi, direttore dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, Debora, da dove vogliamo cominciare? Forse dal dottor Arbia, che ci può spiegare. Sì, c'è esatto, un sito, sì. In realtà, adesso io non vorrei dire, bisognerebbe partire sempre da internet, purtroppo. C'è un sito che si chiama speed.gov.it. Quindi da lì, Arbia, uno dovrebbe più o meno trovare la sua strada, dico bene? Sì, all'interno di quel sito c'è proprio una scelta, richiedi Speed, e quindi vengono elencati i gestori dell'identità digitale, che sono 9 soggetti che svolgono questo servizio in qualità proprio di gestori di servizio pubblico, che sono in grado appunto di rilasciare lo SPID, sono autorizzati a questo. In relazione a quello che ho sentito in merito agli ultra cinquantenni, devo dire che devo dissentire. Attualmente noi abbiamo un numero cospicuo di identità digitali rilasciate, abbiamo superato i 7 milioni, e circa il 50% le hanno acquisite ultra cinquantenni. Quindi insomma ce la posso fare, questo mi vuole dire. Ce la può fare sicuramente. C'è da dire che è chiaro che può sembrare onerosa in qualche modo la procedura per il rilascio, però dobbiamo tenere presente che l'identità digitale è un bene prezioso. È un bene prezioso, siamo noi sulla rete. Dobbiamo quindi capire e accettare che se le procedure per il rilascio ci possono sembrare troppo complesse, lo sono per difenderci dal furto di identità. Certo, è una cosa molto, molto pericolosa, perché poi qualcuno potrebbe spacciarsi per noi, per me, su, non so, con il fisco, con l'INPS, con qualsiasi amministrazione, parte della pubblica amministrazione, e quindi, che so, chiedere e ottenere prestazioni che io non ho chiesto, e quindi goderne lui e non io, per esempio. Non solo, potrebbe ad esempio ritrovarsi anche un ufficiale giudiziario che le bussa a casa perché, utilizzando lo SPID frutto di un furto di identità, sono state effettuate delle operazioni che da un punto di vista giuridico comportano delle obbligazioni di dare o fare nei suoi confronti, in capo a lei. E quindi è molto importante che le procedure siano robuste, certe, e su questo noi vigiliamo continuamente, non solo noi, perché ci avvaliamo della fattiva e preziosa collaborazione dei colleghi del Garante per la protezione dei dati personali, che ci coadiuvano proprio nell'analisi dei rischi, delle esposizioni, di eventuali nuovi processi, nuove procedure per il rilascio dell'identità digitale, volte proprio a evitare il furto di identità. Ecco, scusi, dottor Arbia, qualche ascoltatore dice sì, ma spiegateci a che cosa serve lo SPID, esatto. Perché noi effettivamente infatti, lo diamo per noto, ma forse Debora dovremmo riepilogarlo. Esattamente, infatti, a che cosa ci serve attivarci con questa identità digitale, che nella fattispecie, dottor Arbia, è un codice nella sostanza, un codice unico che ci consente di accedere a più canali della pubblica amministrazione. Sì, diciamo che è un codice tipicamente formato da una user ID e una password, quindi una parola chiave, arricchito da un qualcosa che possediamo, ed è le soluzioni tipiche sono basate appunto sui telefoni cellulari. L'accoppiata di questi due strumenti, che da un punto di vista tecnico assolvono quello che si chiama doppio fattore di autenticazione, cioè qualcosa che conosco e qualcosa che posseggo, fanno sì di poter realizzare un sistema robusto. Ancora più robusto per il tipo di architettura, perché essendo il processo di autenticazione effettuato presso i gestori dell'identità, il nostro gestore di identità che ce l'ha fornita, questo ha la possibilità di monitorarne l'uso e avvisarci su diversi canali, ad esempio via mail, via cellulare con un SMS, ogni qualvolta la nostra identità viene utilizzata. E quindi, qualora pure qualcuno fosse in grado di rubare la mia password, rubare il mio cellulare, io avrei comunque evidenza del fatto che tale giorno, a tale ora, su tale portale è stata utilizzata, e quindi accorgermi che sono stato vittima di furto delle mie credenziali SPID. A che cosa serve? Serve a dimostrare la nostra identità in rete, così come noi dimostriamo la nostra identità presso uno sportello pubblico o un privato, mostrando la nostra carta d'identità, eseguendo un processo di autenticazione con le credenziali SPID, dimostriamo la nostra identità in rete. Fatto questo, possiamo ad esempio accedere ai nostri dati personali, presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, e a breve saranno disponibili anche altre funzioni, quale ad esempio la sottoscrizione di documenti informatici sempre tramite SPID. Ecco quindi che non avrò più alcun bisogno né di spedire cose cartacee né di recarmi fisicamente presso gli sportelli pubblici. Io vorrei chiamare in causa, Deborah, il professor Luca sì. Gastaldi, perché in quanto direttore dell'Osservatorio Agenda Digitale al Politecnico di Milano ci può dire se allora questa diffusione, questo tentativo, questo impegno della pubblica amministrazione per darci una unica password e un unico nome insomma in rete e poi accedere a tutti i vari servizi, possiamo ritenerlo a un buon punto di evoluzione, se ancora fatichiamo. Noi sappiamo, l'abbiamo sperimentato anche in questi mesi di quarantena e di telelavoro forzato, che non tutta Italia è collegata allo stesso modo, sì, e che spesso si fa un po' fatica. Professor Gastaldi, qual è il vostro... Ci aggiungo, vostro... Mauro, prego, se mi permetti, anche una curiosità su quali, visto che loro appunto fanno questo osservatorio, utilizzando l'identità digitale, quali sono poi i servizi maggiormente apprezzati anche da chi si attiva appunto con questo servizio? Professor Gastaldi. Domande complesse, proviamo a rispondere. Per rispondere alla prima bisogna confrontare la nostra soluzione con quella di altri paesi. E dal confronto tutti i paesi hanno più o meno un sistema come SPID o come gli altri sistemi per la gestione delle identità digitali. Ci sono paesi molto molto avanti, per esempio l'India è per diffusione della soluzione e per utilizzo da parte della popolazione è credo uno dei paesi più avanti al mondo da questo punto di vista, ma se ci confrontiamo con i nostri simili, con paesi come il Regno Unito, con la Francia e con la Germania, direi che ce la giochiamo, nel senso che il livello di diffusione, cioè quante identità, quante chiavi universali sono state distribuite alla popolazione e i livelli di utilizzo sono comparabili ai nostri. C'è da dire che SPID ha avuto un'accelerazione grazie al lockdown. E al Covid. Sì, perché essere costretti a stare a casa ci ha fatto scoprire anche a quelli più di noi più resistenti al digitale, che molte cose o si poteva fruirle in digitale o non si poteva fruirle affatto. E quindi sono state fatte, tante persone si sono accorte di tanti dei servizi che non sono tantissimi, ma che ci sono, che possono essere accessibili tramite SPID. Faccio qualche esempio legato magari all'emergenza sanitaria. Con SPID si può fare le indennità Covid per i lavoratori autonomi, si può richiedere il bonus babysitting, si può richiedere il bonus legato alle golf e le badanti, si può richiedere il reddito quello per le biciclette di emergenza. Le biciclette, professor Gastaldi. No, la sa perché la interrompo sulle biciclette? Perché siamo giusti alle 11.45, siccome in questo momento scatta sempre il traffico, allora parlando di biciclette, traffico. Due di denari. Allora, ci siamo fermati sul bonus delle biciclette, ma in realtà il professor Luca Gastaldi, direttore dell'osservatorio Agenda Digitale al Politecnico di Milano, stava affrontando, diciamo, a cosa può servire, a che punto siamo come Italia nella diffusione di questo codice unico, di unica identità digitale per dialogare con tutta la pubblica amministrazione, quindi vuol dire l'INPS, vuol dire il fisco, vuol dire il comune, la regione e così via. E poi c'era un'altra domanda che avevamo fatto, insomma, professor Gastaldi, l'Italia, ohimè, non è tutta collegata allo stesso modo, non è tutta reattiva digitalmente allo stesso modo, almeno così riferiamo noi alla radio e sui giornali, ma magari ci sbagliamo. No, non vi sbagliate, nell'osservatorio che dirigo analizziamo e ci confrontiamo anche su questo fronte, non solo sul tema dell'identità digitale. E posso dirvelo che non mi sbagliate, almeno questo, i numeri che raccogliamo e con cui ci confrontiamo con gli altri paesi mi permettono di dire che ci avete ragione. Purtroppo l'Italia è un po' indietro sul fronte del digitale, perché per una miopia, perché l'abbiamo capito tardi che le infrastrutture digitali erano le strade su cui far correre il nostro paese per alimentare la crescita. L'abbiamo capito tardi rispetto ad altri paesi che hanno cominciato a investire in queste direzioni un po' prima di noi. Peraltro adesso Qualche anno a questa parte l'abbiamo capito bene, ci stiamo investendo. Diamo onore a Cesare. E peraltro adesso poi con l'erogazione dei fondi da parte dell'Unione Europea per questa emergenza coronavirus ci sarà probabilmente anche un dover assoggettare, un dover destinare questi fondi proprio a queste evoluzioni. Deborah, abbiamo ben 4 WhatsApp, testimonianza dei tantissimi ascoltatori che stanno scrivendo. Poi vorrò dire una cosa, dottor Arbia, dopo questi WhatsApp. Forse non è tutto chiaro ancora dell'architettura dello SPID e esattamente a cosa serve, perché le domande sono le più disparate. Per favore, Peter, i WhatsApp. Quando io sono finalmente riuscita a finire la procedura dello SPID, mi sentivo la regina del mondo e sono entrata in tutti i siti della pubblica amministrazione possibile solo per vedere l'effetto che fa. La mia mamma ha 87 anni, la SPID se l'è fatta e la usava regolarmente, quindi non è che non si possa fare, basta volere. Arialista, guarda che anche i diciottenni non sanno farla sta cosa, se proprio vogliamo, là è un fatto di capacità. Siamo seri, ci sono dei ventenni smanettoni che nella mia agenzia non farebbero nemmeno le fotocopie. Al netto dei ventenni smanettoni, Deborah, che non mi sono chiarissimi, abbiamo abbiamo perduto. A proposito, parliamo di appunto difficoltà digitali e abbiamo delle difficoltà di collegamento probabilmente proprio con Deborah. Torno dal dottor Arbia, della responsabile progetto SPID per AGID, per l'Agenzia d'Italia Digitale, per chiedergli una cosa puntuale. Ma se io ho già fatto diverse password, ad esempio per fare la dichiarazione dei redditi online o per richiedere la pensione direttamente all'INPS, cosa me ne faccio di queste password una volta che mi procuro lo SPID, cioè mi do questa unica identità digitale per dialogare con tutti gli uffici pubblici? Si può tranquillamente dimenticare, e questo è l'obiettivo, perché avere tante password crea un problema enorme di sicurezza, perché lei sicuramente come me non utilizza una password diversa per ogni sito, e dobbiamo considerare che non parliamo solo di siti delle pubbliche amministrazioni, ma anche di soggetti privati, quindi utilizzando la stessa password su più siti, su più servizi web, di fatto stiamo rendendo disponibile questa nuova password, questa nostra password a N altri soggetti, che potranno quindi, volendo, utilizzarla, sebbene sia un reato, utilizzarla per accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni, figurando essere noi. Quindi l'obiettivo della SPID è questo, neanche il gestore dell'identità conosca la password. Quindi, seppure fosse attaccato dagli hacker e riuscissero a rubare tutti i dati, una cosa impossibile, custoditi da un gestore dell'identità, non otterrebbe comunque le nostre password. Quindi è un sistema molto sicuro da questo punto di vista. Deborah. Ma per richiederla, dottor Arbia, chiedo a lei, c'è anche un onere economico da sostenere? No, allora, tutti i gestori dell'identità digitale, che attualmente sono 9, hanno l'obbligo normativo di rendere disponibile almeno un sistema fruibile su tutto il territorio nazionale per ottenere l'identità digitale gratuitamente. Detto questo, ce ne sono alcuni, che ad esempio una delle procedure da remoto, che è la procedura audio-video con l'operatore, prevedono che abbia una fee, quindi che venga pagata, altri no. Quindi ecco che sono sul sito in questo momento e lo indicano molto chiaramente. Sì. È indicato chiaramente il quale è gratuito e quale no. C'è da dire che a breve vedremo altre modalità per ottenere l'identità digitale, ancora più semplici, ancora più agevoli. Perché? Perché sono frutto del forte impulso che è stato dato dall'attuale Ministro dell'Innovazione, Paola Pisano, e del direttore dell'AGID, Francesco Paurici, con l'obiettivo proprio di rendere ancora più semplice, più agevole, più snello il processo di rilascio per agevolare appunto i cittadini. Deborah, devo precisare una cosa, si parla sempre di accesso alle pubbliche amministrazioni, ma SPID non è fatto solo per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, ma anche per l'accesso ai servizi dei soggetti privati. Attualmente ne abbiamo ancora pochi, sono 11, però già attraverso questi 11 è possibile, ad esempio, non so, ottenere tramite un'app un certificato anagrafico dal telefono cellulare utilizzando SPID, piuttosto che ottenere il rilascio della firma elettronica qualificata, la firma digitale, per sottoscrivere documenti. In futuro prossimo, parliamo di un paio di mesi, potremo utilizzare lo SPID stesso per sottoscrivere direttamente i documenti informatici, quindi diviene uno strumento sempre più potente. Vorrei anche chiederle, dottor Arbia, ma lo SPID c'entra qualcosa con la posta elettronica certificata? Cioè, per avere lo SPID devo avere la PEC, o le due cose viaggiano per canali completamente diversi? No, non devo avere la PEC. Per ottenere lo SPID è indispensabile indicare, quindi disporre al gestore dell'identità e indicargli un numero di cellulare, perché abbiamo detto che costituisce uno dei fattori di autenticazione, quindi c'è tutta una procedura di sicurezza che blinda l'uso di quel cellulare in relazione a quello specifico cittadino, e una casella di posta elettronica certificata. Potrei utilizzare una casella di posta elettronica ordinaria, ma eventualmente anche indicare la mia casella di posta elettronica certificata, non sono strumenti separati. Facciamo un'ultima domanda, Mauro, al dottor Arbia, perché proprio per entrare molto nel concreto e far capire ai nostri ascoltatori perché è utile avere un'identità digitale quando si tratta appunto di dover fare una richiesta ad un ente della pubblica amministrazione per avere, come nel caso che abbiamo indicato prima, per esempio, una delle indennità che sono state erogate di recente. Ci mettiamo davanti al PC, dottor Arbia, io a parità di necessità ho l'identità digitale e non ce l'ho. Questo significa che, inoltrando la domanda, per esempio, al Ministero, all'INPS, appunto, per chiedere il voucher babysitting, se ho già l'identità digitale, l'INPS ha già tutta una serie di mie informazioni che mi consentono di velocizzare la richiesta. In caso contrario devo fare magari una compilazione un pochino più lunga. È questo il vantaggio dell'avere lo SPID? Vantaggio, ma non solo. C'è da dire che la legge prevede che un'istanza, una dichiarazione, quindi ecco la richiesta di un bonus ad esempio, presentata online tramite lo SPID, vada a sostituire anche quella che è la previsione della firma autografa. Quindi, usando lo SPID, io posso presentare qualsiasi istanza, dichiarazione alla pubblica amministrazione e viene da questa accettata. È da notare che lo SPID non è uno strumento nazionale, ma può essere utilizzato e viene utilizzato per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea. Quindi stiamo creando con lo SPID, attraverso le previsioni di un regolamento comunitario, il regolamento EIDAS, uno strumento che consente di fatto di disporre della nostra identità digitale di cittadini europei e spenderla in tutta Europa. Mm-hmm. Deborah, io vorrei tornare al professor Gastaldi perché curiosando tra le moltissime domande, messaggi, segnalazioni eccetera, io colgo così, non vorrei fare adesso trarre delle conclusioni affrettate come l'ascoltatore che così distingueva tra ultra cinquantenni e pre cinquantenni, però insomma colgo un po' di confusione ancora su termini, non so, OTP, l'uso del cellulare, l'uso dello speed e così via, e vorrei chiedere al professor Gastaldi se come osservatorio anche voi avete così colto una difformità di comprensione delle questioni digitali. Purtroppo sì, ci sono delle difformità. L'Italia, prima di tutto, partiamo da questo fronte, quello delle competenze digitali, che non vuol dire saper programmare o costruire un'applicazione, ma vuol dire saper utilizzare le tecnologie, i cellulari, il computer per risolvere le proprie necessità. Bene, su questo fronte siamo fanalino di coda in Europa. Siamo penultimi su 28 paesi europei, abbiamo molto da fare. In queste settimane il Ministero dell'Innovazione sta scrivendo un piano, una strategia per migliorare le competenze digitali degli italiani. Perché? Perché siamo un po' indietro rispetto al resto d'Europa su questo fronte e soprattutto ci sono grossi divari tra le aree metropolitane e le province e fra il nord e il sud del paese, e quindi c'è bisogno di migliorare la nostra posizione e ridurre un poco questi divari, ed è esattamente quello che si sta facendo. Grazie al professor Gastaldi, grazie al dottor Stefano Arbia, responsabile del progetto SPID per l'Agenzia dell'Italia per l'Italia Digitale. Cara Deborah, siamo in conclusione della settimana e della nostra puntata. So che però tu lunedì non sarai presente. Faccio il weekend lungo, ma non è per il compleanno, è solo per altre necessità, e quindi weekend lungo, ma torno da te martedì. E peraltro noi martedì pomeriggio abbiamo anche un evento al Sole 24 Ore, abbiamo l'evento dedicato al welfare, al cambiamento del mercato del lavoro, per cui andate anche a curiosare sul sito del